Madame Verdurin chiese all'orecchio del marito: «Devo dare il braccio al barone di Charlus?» Siccome tu avrai la tua destra, Madame de Cambremer, si potevano incrociare le cortesie. «No», rispose il signor Verdurin, «perché l'altro è di grado più elevato», intendendo dire che il signor di Cambremer era marchese. «Insomma, il signor di Charlus gli è inferiore». «Ebbene, vuol dire che lo metterò accanto alla principessa». E Madame Verdurin presentò al signor di Charlus Madame Sherbatov. Si inchinarono entrambi in silenzio, con l'aria di saperla lunga l'uno sull'altra e di promettersi un vicendevole riserbo. Il signor Verdurin mi presentò al signor di Cambremer. Prima ancora che parlasse, con la sua voce forte e leggermente balbettante, l'alta figura e il volto colorito esprimevano, oscillando, l'esitazione marziale d'un capo che cerchi di rassicurarvi e vi dica: «Sì, me ne hanno parlato, sistemeremo la cosa. Vi farò togliere la punizione. Non siamo mica mostri assetati di sangue, andrà tutto bene». Poi, stringendomi la mano: «Credo che conosciate mia madre», mi disse. Il verbo «credere» doveva sembrargli adatto a una prima presentazione, ma non a esprimere un dubbio, dal momento che aggiunse: «Del resto mi ha dato una lettera per voi». Il signor di Cambremer era ingenuamente felice di rivedere dei luoghi dove aveva vissuto per tanto tempo. «Mi ritrovo», disse a Madame Verdurin, mentre il suo sguardo si meravigliava di riconoscere i fiori dipinti sui pannelli delle sovrapporte e i busti di marmo sui loro alti basamenti. Ma avrebbe anche potuto sentirsi spaesato, perché Madame Verdurin aveva introdotto un gran numero di belle cose antiche di sua proprietà. Da questo punto di vista, Madame Verdurin, pur passando agli occhi dei Cambremer per una che metteva tutto sottosopra, non era affatto rivoluzionaria, ma intelligentemente conservatrice, in un senso che loro non riuscivano a capire. L'accusavano a torto, così, di detestare la vecchia dimora e di disonorarla con semplici tele al posto della loro felpa sontuosa, come un curato ignorante che rimproveri un architetto diocesano di ricollocare dove erano certi vecchi legni scolpiti che l'ecclesiastico aveva deciso di scartare, sostituendoli con paramenti comprati in Place Saint-Sulpice. Inoltre, un giardino di genere parrocchiale cominciava a surrogare davanti al castello le aiuole che costituivano l'orgoglio non solo dei Cambremer, ma del loro giardiniere. Questi, che vedeva nei Cambremer i suoi soli padroni e gemeva sotto il giogo dei Verdurin, come se il territorio fosse stato momentaneamente occupato da un invasore e dalla sua soldataglia, si recava in segreto a esporre le sue lagnanze alla proprietaria spossessata. Si indignava del disprezzo in cui erano tenute le sue araucarie, le sue begonie, le sue barbe di Giove, le sue dahlie doppie, e del fatto che s'osasse in una così augusta dimora far crescere fiori comuni come le antemidi e i capelvenere. Madame Verdurin percepiva questa sorda opposizione ed era decisa, nel caso avesse concluso un lungo affitto o addirittura l'acquisto della Raspellier, a mettere come condizione il licenziamento del giardiniere, cui la vecchia proprietaria, invece, teneva immensamente. L'aveva servita gratuitamente in tempi difficili, la adorava, ma per il bizzarro spezzettamento delle opinioni tipico della gente del popolo, in cui il più profondo disprezzo morale si insinua nella stima più appassionata, che si sovrappone a sua volta a vecchi e non sopiti rancori, diceva spesso di Madame de Cambremer, la quale nel 70, sorpresa dall'invasione in un castello che aveva allora nell'est, aveva dovuto sopportare per un mese il contatto con i tedeschi, quello che si è molto rimproverato alla signora Marchesa è d'essersi messa durante la guerra dalla parte dei prussiani e di averli anche ospitati in casa sua. In un altro momento avrei capito, ma in tempo di guerra non avrebbe dovuto, non sta bene. Insomma, le era fedele fino alla morte, la venerava per la sua bontà e diffondeva la voce che si fosse resa colpevole di tradimento. Madame Verdurin si irritò del fatto che il signor di Cambremer pretendesse di riconoscere così bene la Raspellier. «Ci troverete pure qualche cambiamento», replicò. Prima di tutto, quei diavoloni in bronzo di Barbedienne e quelle sciocchissime seggioline di peluche che mi sono affrettata a spedire in solaio, una sistemazione fin troppo onorevole per loro. Dopo avergli dato questa acerba risposta, offrì il braccio al signor di Cambremer per andare a tavola. Il marchese esitò un attimo dicendosi: «Nonostante tutto non posso passare prima del signor di Charlus». Ma pensando che questi fosse un vecchio amico di famiglia, dal momento che non aveva il posto d'onore, si decise a prendere il braccio che gli veniva offerto e disse a Madame Verdurin quanto fosse fiero d'essere ammesso nel cenacolo. Fu così che alluse al piccolo clan, non senza una risatina, per la soddisfazione di conoscere quel termine. Cottard, che era seduto accanto al signor di Charlus, lo guardava da sotto gli occhialetti a stringinaso per fare conoscenza e rompere il ghiaccio, con strizzatine d'occhio assai più insistenti di quelle d'un tempo e non più frenate dalla timidezza. E questi sguardi invitanti, ingigantiti dal sorriso che li accompagnava, non stavano più dietro le lenti, ne straripavano da ogni lato. Il barone, incline a vedere ovunque dei suoi simili, pensò che Cottard fosse senz'altro uno di loro e gli facesse l'occhiolino. Immediatamente trattò il professore con la durezza degli invertiti, tanto sprezzanti con le persone a cui piacciono quanto ardentemente premurosi con quelle che piacciono a loro. Indubbiamente, sebbene tutti parlino mentendo della dolcezza sempre rifiutata dal destino d'essere amati, è una legge generale e il cui dominio è ben lungi dall'estendersi ai soli Charlus che l'essere che non amiamo e che ci ama ci appaia insopportabile. A questo essere, a quella certa donna di cui non diremo che ci ama ma che ci perseguita, preferiamo la compagnia di qualsiasi altra, la quale non avrà né il suo fascino, né la sua amabilità, né la sua intelligenza. La prima non li recupererà ai nostri occhi se non quando smetterà di amarci. In tal senso, si potrebbe vedere la semplice trasposizione sotto una forma bizzarra di quella regola universale nell'irritazione provata da un invertito nei confronti di un uomo che non gli piace e che lo corteggia. Ma in lui essa è molto più forte. Così, mentre la maggior parte degli uomini, pur provandola, cerca di dissimularla, l'invertito la fa implacabilmente sentire a colui che la provoca, come certamente non farebbe con una donna, per esempio il signor di Charlus con la principessa di Grammont, la cui passione lo infastidiva ma lo lusingava. Ma quando vedono un altro uomo manifestare nei loro confronti una particolare inclinazione, allora, sia per non averla riconosciuta uguale alla loro, sia questo un increscioso richiamo al fatto che quell'inclinazione, abbellita finché sono loro stessi a provarla, è considerata alla stregua d'un vizio, sia desiderio di riabilitarsi clamorosamente a buon mercato, sia timore d'essere scoperti che li riprende di colpo quando il desiderio non li trascina più a occhi bendati di imprudenza in imprudenza, sia rabbia di subire per colpa dell'atteggiamento equivoco dell'altro il danno che non esiterebbero se l'altro gli piacesse a provocargli con il loro, gli stessi che non provano alcun imbarazzo a seguire per chilometri un giovanotto, a non staccargli gli occhi di dosso a teatro, anche se assieme a degli amici, rischiando così di farlo litigare con loro, li si può sentire se solo uno che non gli piace osa fissarli e esclamare: «Signore, perché mi prendete?» Semplicemente perché li prende per quello che sono. «Non vi capisco, è inutile che insistiate, vi state sbagliando». Arrivare, se occorre, fino agli schiaffi e, alla presenza di qualcuno che conosca l'imprudente, abbandonarsi all'indignazione. Come? Conoscete quel tipo orrendo? Ha un modo di fissarvi. Belle maniere davvero. Il signor di Charlus non si spinse a tanto, ma esibì l'espressione offesa e glaciale che assumono, quando qualcuno ha l'aria di crederle leggere, le donne che non lo sono, e più ancora quelle che lo sono. D'altronde, l'invertito, messo in presenza di un altro invertito, vede non soltanto un'immagine sgradevole di se stesso, la quale puramente inanimata potrebbe solo far soffrire il suo amor proprio, ma un altro se stesso, vivo, attivo nel medesimo senso, capace dunque di farlo soffrire nei suoi amori. Così è per istinto di conservazione che dirà male del possibile concorrente, sia con le persone che possono nuocere a quest'ultimo, e senza che l'invertito numero uno si preoccupi di passare per bugiardo, quando discredita in tal modo l'invertito numero due agli occhi di persone che possono essere al corrente della sua propria situazione, sia con il giovane che ha stanato, che sta forse per essergli portato via e al quale occorre mostrare come le stesse cose che ha ogni convenienza a fare con lui lo porterebbero alla rovina se si lasciasse andare a farle con quell'altro. Per Charlot, preoccupato forse dei pericoli, ha fatto immaginare che la presenza di quel Cottard, di cui capiva a rovescio il sorriso, avrebbe fatto correre a Morel. Un invertito che non gli piaceva non era soltanto una sua caricatura, era anche un rivale designato. Se un commerciante che esercita un commercio raro, arrivando nella città di provincia dove viene a sistemarsi definitivamente, vede che nella stessa piazza, proprio di fronte, gli stessi articoli sono offerti da un concorrente, non è più avvilito di uno Charlot il quale, andato a nascondere i propri amori in una regione tranquilla, il giorno stesso dell'arrivo scopre nel gentiluomo del luogo o nel parrucchiere aspetto e modi che non gli lasciano dubbi. Il commerciante spesso prende a odiare il concorrente. L'odio degenera a volte in malinconia e, se appena vi sia una tendenza ereditaria un po' marcata, si è visto il commerciante in qualche piccola città dare segni di follia, da cui lo si guarisce solo convincendolo a vendere il suo fondaco e a trasferirsi altrove. La rabbia dell'invertito è ancora più lancinante. Ha capito che sin dal primo istante il gentiluomo e il parrucchiere desiderano il suo giovane compagno. Ha un bel ripetere a costui 100 volte al giorno che parrucchiere e gentiluomo sono banditi, la cui vicinanza lo disonorerebbe. È costretto, come Arpagone, a vegliare sul suo tesoro e si alza di notte per vedere che non glielo rubino. Ed è questo, probabilmente, più ancora del desiderio o della comodità di abitudini comuni e quasi quanto quell'esperienza di sé che è l'unica vera, a spiegare come l'invertito individui l'invertito con una rapidità e una sicurezza quasi infallibili. Può ingannarsi per un attimo, ma una sollecita divinazione lo ricolloca nel vero. Così, l'errore del signor di Charlot fu di breve durata. Il discernimento divino gli rivelò istantaneamente che Cottard non era della sua specie e che non aveva da temere le sue avances né per se stesso, cosa che l'avrebbe soltanto esasperato, né per Morel, cosa che gli sarebbe apparsa più grave. Riacquistò la calma e, poiché era ancora sotto l'influsso del passaggio di Venere androgina, di tanto in tanto sorrideva debolmente a Everdurin, senza darsi la pena d'aprir bocca, spianando appena un angolo di labbra, e per un secondo accendeva teneramente gli occhi, lui così fanatico della virilità, esattamente come avrebbe fatto sua cognata, la duchessa di Guermont. «Andate molto a caccia, signore?» chiese Madame Verdurin con disprezzo al signor di Cambremer. «Schi vi ha raccontato che ce n'è capitata una davvero buona?» chiese Cottard alla padrona. «Vado a caccia soprattutto nella foresta di Chantepie», rispose il signor di Cambremer. «No, non ho raccontato niente», intervenne Schi. «È degna del suo nome?» chiese Brichot al signor di Cambremer, dopo avermi guardato con la coda dell'occhio, giacché mi aveva promesso di parlare di etimologie, pregandomi tuttavia di dissimulare davanti ai Cambremer il disprezzo ispiratogli da quelle del curato di Combray. «Sarà certo perché non sono all'altezza di capire, ma non afferro la vostra domanda», rispose il signor di Cambremer. «Voglio dire, ci cantano molte piche?» spiegò lo studioso. Cottard, intanto, soffriva al pensiero che Madame Verdurin ignorasse che erano stati lì lì per perdere il treno. «Su, coraggio», disse Madame Cottard al marito per incoraggiarlo, «racconta la tua odissea». «In effetti non è una cosa che succeda tutti i giorni», esordì il dottore ricominciando il suo racconto. «Quando ho visto che il treno era in stazione sono rimasto di sasso, tutta colpa di Schi. Siete abbastanza strambo, caro amico, in fatto di informazioni. È Brichot che ci aspettava alla stazione. Credevo, disse l'universitario, lanciando attorno a sé quel po' di sguardo che gli restava e sorridendo con le labbra sottili, che vi foste attardati a Grandcourt per esservi imbattuti in qualche peripatetica. Volete tacere? Se vi sentisse mia moglie, protestò il professore. È gelosa, sapete, la mia mogliera. Quel Brichot! Esclamò Ski, nel quale la salace facezia di Brichot risvegliava la prescritta allegria. È sempre lo stesso. Sebbene ignorasse, a dire il vero, se l'universitario avesse mai fatto vita libertina, e per aggiungere alle parole consacrate il gesto rituale, finse di non poter resistere alla tentazione di pizzicargli la gamba. «Non c'è verso che cambi questo bel tomo», continuò Ski, e senza pensare che la quasi cecità dell'universitario dava alla frase qualcosa di triste e di comico, aggiunse «Sempre un'occhiatina di riguardo per le donne». «Vedete», disse il signor di Cambremer, «cosa vuol dire incontrare un uomo di cultura. Sono 15 anni che vado a caccia nella foresta di Chantepie e non avevo mai riflettuto sul significato del nome». Madame de Cambremer lanciò al marito un'occhiata severa. Non avrebbe voluto che si umiliasse così davanti a Brichot. Fu ancora più scontenta quando, ad ogni frase fatta, impiegata da Cancan, Cottard, che ne conosceva virtù e debolezze per averle faticosamente imparate, dimostrava al marchese, subito disposto ad ammettere la propria insipienza, che non volevano dire nulla. «Perché? Scemo come una cucuzza? Credete che le zucche siano più scemi di altre cose? Voi dite, ripetere 50 volte la stessa cosa. Perché proprio 50? Perché dormire come un ciocco? Perché fulmini e saette? Perché fare il diavolo a 4? Ma a questo punto era Brichot a prendere le difese del signor di Cambremer, spiegando l'origine di ciascuna locuzione.